1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti a leggere allora con voi e per voi i giornali, se vi siete svegliati solo ora, come dico spesso, razza di debosciati, siete comunque benvenuti. Noi siamo qui dalle 6:30 e oggi parleremo di politica, le elezioni amministrative, saranno con il direttore del giornale Alessandro Sallusti, Massimo Fini del Fatto Quotidiano, sarà con noi il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, tra l'altro di Roma, quindi per parlare anche insomma, sicuramente non del risultato encomiabile del movimento di Beppe Grillo a Roma. Questo più avanti, allora andiamo proprio a tuffarci nella lettura dei giornali dedicati soprattutto appunto alle elezioni. È martedì 28 maggio e allora guardiamo i titoli. Il Sole 24 Ore apre sulla questione industriale, piano del governo salva Ilva, questo è il titolo di apertura, mentre le aperture dedicate alle elezioni, Corriere della Sera, vince l'astensione, perde Grillo, sale il PD, questo è il titolo di prima pagina, per Repubblica, la rivincita del PD, crolla Grillo, il Messaggero, Roma sfida Marino Alemanno, la Stampa, fuga dal voto, flop dei grillini, il Fatto Quotidiano, mezza Italia contro i partiti, bene Marino, male Grillo. Per Libero c'è la foto, c'è un fotomontaggio con Grillo e il titolo è Pallone sgonfiato, mentre il giornale, sempre su Grillo, Grillo, arrenditi. Per il Secolo XIX, Comuni, tonfo di Grillo. Vedete che questo è un po' il tema che accomuna tutti i titoli dei giornali. Avvenire, l'astensione vince ancora. Unità, l'unità, avanti, centro-sinistra, mentre il Manifesto mette una foto delle urne, o meglio dei seggi elettorali, col titolo Vaffa dei, stravince l'astensionismo, ma certo si utilizza anche quello che è uno degli slogan del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Allora però voglio partire da un uomo che dalla politica è uscito poco tempo fa per andare in carcere, poi agli arresti domiciliari. E pare che non voglia rientrare in politica. Francone Fiorito è stato condannato ieri a 3 anni e c'è questa frase che è diventato già il titolo di tutti i giornali: diventerò un filantropo. Fiorito condannato a 3 anni, diventerò un filantropo, così pagina 29 del Corriere della Sera. Mi metto a fare il filantropo. Tra l'altro c'è un giallo, ma come? Tutti i giornali raccontano a 50 anni avrà diritto, per esempio il Corriere della Sera con Fulvio Fiano, al vitalizio. Anche il Secolo XIX è più dubbioso, se non verrà cambiata la legge, una legge regionale avrà diritto a 50 anni al vitalizio. Ma come no? Noi qua abbiamo avuto il presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio che ci ha spiegato, e voglio sperare che ci abbia detto la verità, che se una persona viene condannata per reati contro la pubblica amministrazione, se ha questo tipo di condanna, per una legge regionale che hanno approvato adesso in commissione bilancio, dovrà immagino poi diventare una legge regionale a tutti gli effetti, con una condanna per reati con la pubblica amministrazione, ci ha assicurato il presidente della commissione, si perde il diritto al vitalizio a vita, se ancora ovviamente il vitalizio non lo si è ancora preso. E allora c'è il giallo vitalizio. Voglio sperare che ci ha detto il presidente della commissione bilancio una cosa vera. Comunque Francone Fiorito parla al Messaggero a pagina 13, l'intervista di Aldo Simoni. E beh, sempre ora basta politica, farò il filantropo. E questo poi: io non ho mai rubato, io quei soldi non li ho rubati, non ho paura del futuro, sono disposto a tutto. L'esperienza più terribile è il carcere, non lo auguro a nessuno. In compenso in cella ho scritto molto, ricostruendo la mia carriera politica e la mia vicenda giudiziaria. Ricordo gli attestati di stima ricevuti da tantissimi amici. Io resterò ora ad Anagni, ho scontato i domiciliari e la gente mi vuole bene. E poi insomma la battuta del giorno è questa. Eh sì, sono pronto a stampare delle magliette con la frase che mi diceva la Regina Celi quando passavo. A Batman! Ecco, quando passava Regina Celi gli altri detenuti gli urlavano così con calata romanesca, grida lui, E allora è pronto a stampare le magliette. Io vorrò conoscere la prima persona, oltre a Francone Fiorito, in grado di esibire la maglietta con su scritto "A Batman". Magari fa un business milionario e per quello troverà i soldi per fare il filantropo, anche perché Grazia Longo sulla Stampa, pagina 23, racconta: sì, farò il filantropo, ma con quali soldi, visto che deve restituire ora, ha già sborsato 550.000 euro, ma deve sborsare 1.090.000 stabilito dalla Corte dei Conti. Insomma, la strada è ancora lunga. Forse confida nel vitalizio, ma chissà se ce lo avrà. E forse si lancerà con le magliette Batman per cercare questo business, chi lo sa. Comunque, Francone Fiorito, allora, ben altro tenore, e davvero ben altro tenore, e anche sdegno, diciamo la verità. Lo ha suscitato l'immagine che voi trovate, la Stampa giustamente la mette in prima pagina, di una camera semivuota. Ieri, quando si discuteva del tema di cui si dibatte tanto anche sui giornali, di cui nella società purtroppo è un tema molto sentito, sempre più sentito, quello del femminicidio, è ancora vivissima l'eco della tragedia avvenuta a Corigliano Calabro, no? Oggi proprio ci saranno i funerali di questa ragazza Fabiana di 15 anni. E che succede ieri alla Camera? Beh, guardate la Stampa che mette nel buongiorno di Gramellini, che oggi eccezionalmente, diciamo, contiene una foto e il testo quindi è più ridotto di Massimo Gramellini. La Camera vuota, semivuota. C'erano solo quelli del Movimento 5 Stelle, qualche altro deputato. Eccola qui, una Camera vuota. Qui si discute di femminicidio. La foto, scrive Gramellini, testimonia l'interesse travolgente con cui i deputati della Repubblica hanno seguito il dibattito sulla ratifica della Convenzione di Istanbul, che finalmente riconosce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Esprimo solidarietà alla presidente Boldrini, che nella foto è quel puntino scuro sulla destra, e ai pochi superstiti. Se qualcuno volesse sapere perché le urne della politica sono sempre più vuote, gli basterebbe osservare le aule. Le urne si adeguano soltanto partecipando a quel senso diffuso di impotenza che è il male sottile della democrazia. Davvero incredibile questa foto su questo tema così sentito, a maggior ragione dopo un fatto di cronaca così terribile come quello avvenuto a Corigliano. Si parla di violenza sulle donne, tutti i giornali lo sottolineano, e l'aula della Camera resta deserta. Anche il Corriere, a pagina 27, titola così. Ovviamente il presidente Laura Boldrini ha espresso dispiacere, visto che è un tema che in prima persona sta seguendo e per il quale si sta battendo molto. L'aula deserta. C'è stata anche una polemica tra una deputata del Movimento 5 Stelle, Carla Ruocco, che dopo le parole della Carfagna, dell'ex ministro Carfagna, ha scritto su Facebook: ma lei, Mara Carfagna, che parla di corpo femminile da non strumentalizzare nelle trasmissioni? Ma è quella stessa Carfagna? Sarà per questo che le sue colleghe pidelline sono tutte assenti? Una polemica alla quale Mara Carfagna ha risposto dicendo: sono stata chiamata in causa da una collega che nel mezzo di una discussione su un tema così drammatico ha preferito divertirsi su Facebook invece di dare il suo contributo in aula. Vabbè, insomma, ecco, passerà la storia questa seduta perché è deserta e per questa polemicuccia su Facebook e la risposta dell'ex ministro. In tutto questo ci sono ancora tanti articoli sulla tragedia di Corigliano, di appunto Fabiana. Si sanno sempre più particolari, come quello, l'ultimo, sempre più tragico, che ha lottato per togliere la tanica dal fidanzato, ex, insomma, fidanzatino, chiamiamolo così, dal ragazzo che l'ha uccisa, che era andata a recuperare dopo averla accoltellata e abbandonata della benzina. Quindi ha tentato anche di lottare, questo dalle testimonianze di chi l'ha uccisa. C'è un intervento che vi sottolineo, se lo volete leggere, di Rino Gattuso, calciatore di Corigliano Calabro, oggi gioca in Svizzera, su Repubblica. Quando ho letto quello che è successo a Corigliano, scrive Gattuso, ho provato un dolore fortissimo, non solo perché è successo nel mio paese, tra le case e i luoghi in cui ho vissuto la mia infanzia prima di lasciare la Calabria e dove spesso torno, ma anche e soprattutto perché mi è venuta da genitore e uomo l'ansia di capire la ragione di un fatto che la mente umana fatica a capire. Perché è potuta accadere una cosa così abnorme? Perché un ragazzo di nemmeno 18 anni dà fuoco alla sua fidanzata? Perché è possibile nella routine quotidiana tra noia e indifferenza del prossimo possano scatenarsi gesti simili? Davvero l'uomo meridionale si crede padrone della donna al punto da decidere di ucciderla? Ecco, queste sono le domande da cui parte la riflessione di Rino Gattuso, nato appunto proveniente dallo stesso paese di Fabiana e dell'assassino di Fabiana. Io coriglianeese dico ora non lasciateci soli. Trovate l'intervento di Gattuso a pagina 20 e 21 di Repubblica. Allora, le elezioni amministrative che cosa hanno fatto registrare? Intanto un calo di votanti, si discute subito sull'astensionismo, come si dice in questi casi uno dei partiti che hanno vinto. La città più importante ovviamente è Roma, dove al primo turno ha vinto, nel senso che è in testa, ma andranno al ballottaggio Ignazio Marino, si è testato al 42,8% davanti a Gianni Alemanno, sindaco uscente al 30,2%, dunque un ballottaggio che vedrà Alemanno dover recuperare una percentuale molto ampia. E poi tutti i giornali scrivono del crollo, i termini sono questi, flop, crollo del Movimento 5 Stelle, che ovunque perde consensi rispetto a votazioni precedenti. Comunque, astensione alta a Roma, avanti Marino, così titola per esempio il Sole 24 Ore, pagina 13, con Riccardo Ferrazza, l'analisi un po' completa dei casi e delle città. Una campagna elettorale narcotica e sottotono ha prodotto il risultato previsto e temuto alla vigilia, un'affluenza bassa al 62,38% in genere e assai lontana dal dato della precedente tornata risalente al 2008, un meno 15% quando si votò in contemporanea con le politiche. A fare da zavorra è stata Roma, uno dei 16 capoluoghi chiamati al voto, dove un cittadino su due, 52,8%, non è andato a votare, con poca distinzione tra centro e periferia e un picco di non partecipazione tra i giovani. Nelle città in prevalenza prevale, diciamo, numericamente il centro-sinistra. Certo, poi questo è il primo turno, ci saranno i ballottaggi. Intanto l'astensionismo. Beh, vi sottopongo l'analisi di Roberto Dalimonte, studioso molto attento proprio di flussi anche elettorali, che dà una lettura un po' in controtendenza rispetto che quella il titolo che trovate su tutte le prime pagine dei giornali, cioè trionfo dell'astensionismo. In realtà, scrive Dalimonte in prima pagina sul Sole, dal titolo «Elettori in calo, ma non è crollo», l'unico dato definitivo è proprio quello che al momento di cui si può discutere è la partecipazione elettorale, anche se è un dato di difficile lettura. Infatti in molti comuni si è votato nel 2008 contemporaneamente alle politiche e questo falsa il confronto con le comunali di oggi. In ogni caso questo è il confronto dal quale molti ricavano la conclusione di un forte aumento dell'astensionismo. In realtà questo confronto, come si diceva, non va bene. Perché? Perché ovviamente quando si votava nel 2008 alle politiche un po' trascinava anche al voto chi si trovava a votare, votava anche per le amministrative. Scrive Dalimonte, un dato più significativo salta fuori se confrontiamo invece gli 8 comuni capoluogo in cui non si è votato nel 2008, cioè quelli in cui non si è votato insieme alle politiche. In questo caso il calo è meno marcato, è di 8,2 punti di partecipazione in meno, cioè 68,5% oggi a fronte del 76,7% delle precedenti volte. Questo è un dato rilevante perché si tratta dello stesso calo registrato alle amministrative del 2012 rispetto al turno precedente del 2007. In altre parole, nei comuni in cui si è votato l'anno scorso il calo della partecipazione è stato circa di 8 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, praticamente lo stesso calo di quest'anno. In pratica, da alcuni anni a questa parte si è innescato un trend negativo della partecipazione elettorale nel nostro paese, un trend che riguarda tutti i tipi di elezioni, un trend che si attesta appunto circa 8 punti di perdita di persone, 8 punti percentuali di persone che ogni votazione ogni 5 anni non vanno a votare. Certo, è l'emblema di una disaffezione progressiva dalla politica, ma scrive Dalimonte, non così marcata questa volta rispetto a quello che è successo al passato. Riguardo a Roma, Roma è la città ovviamente dove appunto Ignazio Marino è in testa, però la capitale non decide. Marino ha 12,5 punti percentuali in più Certo che un romano su due avente diritto al voto non si sia recato alle urne è un dato abbastanza significativo. Significativa anche la spiegazione, come scrive il Corriere della Sera, pagina 6, che ha dato il sindaco uscente Gianni Alemanno, e Alemanno dà la colpa al derby. Ma come al derby? Ebbene sì, ieri tra le varie spiegazioni che ha fatto Gianni Alemanno ha detto questo: è stato un trauma impressionante il derby per la città. Non abbiamo ben valutato il tifo calcistico che ha bloccato 200.000 persone. E al che scrive Ernesto Menicucci: ma perché il derby avrebbe danneggiato il centrodestra rispetto al candidato del centrosinistra? Forse perché le curve romaniste e laziale è lì che votano? Non è questo, ecco Alemanno ancora, ma è per la tipologia delle candidature. Quella di Marino è più lontana dallo stadio. Questa è la spiegazione un po' arzigogolata, insomma, che dà Gianni Alemanno. Ma a che vorrebbe dire che bisognava non giocare la partita? Hanno deciso prefetto, questore e la Lega Calcio. Insomma, questo dà spunto al Corriere della Sera di titolare e Alemanno dà la colpa al derby. In realtà Alemanno poi fa anche un'intervista alla Repubblica in cui analizza il voto in maniera più, insomma, con analisi un po' più approfondite di quella che potrebbe essere una partita di calcio. Ovviamente si è scatenata anche la battaglia sui voti, i voti per esempio di Alfio Marchini. Alfio Marchini, che si è attestato attorno al 10%, a chi darà i voti al ballottaggio? Beh, l'intervista che potete leggere sul Messaggero ad Alfio Marchini, l'intervista fatta da Mario Aiello, è un capolavoro di, come dire, si potrebbe dire di supercazzolismo, cioè nel senso di rispondere e non rispondere. Sentite qui: adesso siamo determinanti nel ballottaggio, dunque farete alleanza con Marino o Alemanno? Mi sembra del tutto prematuro fare dichiarazioni di voto, la situazione è questa, le due principali coalizioni non sono riuscite a vincere, quindi c'è una domanda di altro e noi su quella insisteremo. Ho capito, ma preferisce l'uno o l'altro? Io preferisco procedere nella strada che abbiamo tracciato, quella di una politica per i cittadini e non populistica, non distruttiva. Sì, ma Marino le sta facendo sviolinate plateali, lei come risponde? Sono apprezzamenti rivolti alle persone straordinarie che ci hanno votato. Io così intendo le parole di Marino. Ma insomma, Marchini si sente equidistante? Sono vicino ai cittadini che ci sostengono. Insomma, c'è 5-6 domande, ma non risponde. È chiaro che da qui a tra due settimane, come dire, politicamente parlando, chi offre di più? Alemanno, Marino, chi offre di più? Ovviamente di alleanze possibili, perché il voto, ovviamente, ci sono in ballo una decina di punti percentuali, poi ci sono quelli del Movimento 5 Stelle. Cosa faranno? Beh, loro dicono già non faremo alleanze con nessuno, ma anche lì sul 12%, insomma, bisogna capire a chi andranno al ballottaggio. Per il momento gongola Enrico Letta. Così almeno nessuna dichiarazione ufficiale da parte del Premier, che come vedremo tra poco si è concentrato sull'economia eccetera, ma tutti retroscena fanno sapere che Enrico Letta è felice. Goffredo De Marchis su Repubblica in prima pagina: le larghe intese non ci fanno male. Il governo delle larghe intese non fa male alla politica, così scrive e mette in bocca a Enrico Letta queste parole Goffredo De Marchis. Insomma, Enrico Letta tradisce la soddisfazione. Per carità, nessuna dichiarazione pubblica per non rompere il profilo istituzionale totalmente concentrato su problemi che mi sembra giusto tenere in questa fase, ma il cosiddetto inciucio che doveva portare Grillo all'80%, si sbagliavano. Questa è la sensazione attribuita a Letta. I ballottaggi vanno solo candidati di centrosinistra e centrodestra, perché non c'è alcun inciucio, ma un governo di servizio, un governo che vuol recuperare credibilità nelle istituzioni agli occhi dei cittadini, come è successo col finanziamento pubblico ai partiti. Insomma, Letta tira un sospiro di sollievo. La sensazione per il Premier è: le larghe intese non fanno male. Anche per il Messaggero, pagina 6, Letta: la gente ha capito, vince la scelta delle larghe intese. Mentre invece Berlusconi, che starà tutta la settimana in Sardegna e che ieri non ha commentato, anche qui retroscena raccontano di un Berlusconi un po' non troppo preoccupato. Pare che a lui anche la scelta del candidato Alemanno, soprattutto a Roma, non sia stata particolarmente gradita. Forse, secondo alcuni giornali, voleva un po' un cambiamento. In ogni caso, stare al governo così non premia, questa è la frase che viene attribuita a Berlusconi da Repubblica. Ora il rapporto col governo deve cambiare, dobbiamo farci sentire, imporre i nostri temi. In realtà, per il Corriere della Sera la delusione è un po' più sfumata. Paola Di Caro a pagina 10, il PDL è deluso, a rischio pure le roccaforti. Berlusconi però è più deluso soprattutto dal disamore verso la politica. La gente è sempre più lontana dalla politica, è l'astensionismo, scrive il Corriere, dice a chi gli ha parlato a preoccupare molto Berlusconi, che non fa un dramma del risultato elettorale tanto da aver chiamato Alemanno dicendosi fiducioso in vista del ballottaggio, ma che guarda soprattutto al quadro politico dicendo la gente è sempre più delusa e lontana dalla politica perché non diamo le risposte che si aspettano. E invece la delusione, anche i processi, la rabbia nella base si sta scatenando il Movimento 5 Stelle, perché i titoli sono molto duri. È vero che adesso molti del Movimento 5 Stelle già accusano i giornali di volere, come dire, pompare quello che viene definito sui giornali flop, disastro del Movimento 5 Stelle, quindi già c'è una controreazione a dire ecco i giornali dipingono già come se fossimo allo sbando. In realtà il racconto è proprio anche di una base abbastanza in fermento all'interno del Movimento 5 Stelle. Certo, ci sono giornali come Libero, Il Giornale, Mai Stati Teneri con Beppe Grillo, che ora godono nel mettere Grillo Arrenditi o flop Grillo, ma tutti i quotidiani, a meno che tutti i quotidiani non siano di regime, irregimentati per dare conto a Beppe Grillo, ma i dati sono quelli, praticamente comune il Movimento 5 Stelle si è affermato, a differenza di quanto aveva fatto per esempio in altre amministrative in passato. Gli elettori puniscono Grillo, voti più che dimezzati ovunque, titolo per esempio così Repubblica. C'è anche appunto gran fermento, parla il senatore Zaccagnini, uno di quelli che viene dato sempre più dei cosiddetti dissidenti o comunque fuori un po' dalla linea, viene intervistato sia da Repubblica, da Annalisa Cuzzocrea, sia da Andrea Malaguti sulla Stampa. Alla Stampa per esempio dichiara: né Grillo né Casaleggio né Crimi possono parlare per noi, torniamo tra la gente, avremmo dovuto indicare i nostri nomi al Presidente della Repubblica, Rodotà, Settis, Montanari. Abbiamo perso perché certo a Roma le logiche dei palazzi contano ancora molto. Però alla domanda, il vostro capogruppo al Senato Crimi ha sostenuto che non spetta a voi parlamentari pensare alla strategia. Non siamo qui per questo, di certo né Crimi, né un blog, né un'azienda di comunicazione, né uno tsunami tour possono parlare al nostro posto. La strategia del movimento la fanno Grillo e Casaleggio? Sì, risponde Zaccagnini. E funziona? Non lo so. Noi 5 Stelle abbiamo portato in Parlamento aria nuova, freschezza evidente, ma se crediamo di essere perfetti è finita. Il nodo cruciale resta quello della democrazia interna. E questo parla in maniera molto dura. Intanto Vito Crimi, il capogruppo al Senato, ancora per pochi giorni, poi ci sarà l'avvicendamento trimestrale. E racconta Alessandro Trocino sul Corriere della Sera pagina 9, ribadisce: ieri ha mandato un SMS a tutti i senatori, vi chiediamo di non commentare i risultati del voto. Questo racconta il Corriere della Sera, un bavaglio morbido che si unisce alla promessa di mandare in TV una decina di parlamentari affidabili. Questa è la decisione, cioè pare che adesso torna il rapporto con la TV. E si sarebbe deciso all'interno del movimento di scegliere 10 parlamentari, come dire i più scafati, quelli che se la sanno più cavare, per mandarli in TV. Ho da dire ancora di elezioni il crollo anche abbastanza della Lega, che ce ne dica prima Matteo Salvini, insomma anche a Treviso volta le spalle alla Lega, lo sceriffo Gentilini deve inseguire, così a pagina 16 del Corriere della Sera Marco Cremonesi. Non hanno vinto neanche a Vicenza, dove si è confermato l'amministrazione uscente di centrosinistra Variatico, la candidata sindaco della Lega Dall'Ago, che dice non si capisce più perché dovrebbero votarci. Molti del PDL hanno scelto Variati del centro-sinistra perché a noi manca quello che dava Umberto Bossi. Vabbè, insomma, questo per quel che riguarda la Lega. Lasciamo un po' la politica, le amministrative che hanno preso molto tempo, l'economia, alcune notizie flash importanti. La prima è che Enrico Letta, il Premier, ha detto: domani c'è l'attesa decisione della Commissione Europea di toglierci dalla procedura di infrazione, e quindi tutti puntano a questo tesoretto. Ieri il ministro Del Rio lo quantificava a 10-12 miliardi che possono essere spesi, ma Enrico Letta ha frenato su questo. Con l'ok dell'Unione Europea, risorse solo dal 2014. Così il Premier cerca, insomma, di frenare anche la corsa al tesoretto. Questo è il titolo, per esempio, del giornale a pagina 13. Letta ferma l'assalto al tesoretto dell'Unione Europea. Mentre una cosa importante a cui sta pensando il governo, ce l'aveva preannunciato proprio questi microfoni, quello che poi è diventato vice ministro dell'economia Fassina. Il governo sta seriamente pensando di bloccare l'aumento dei ticket sanitari che sono previsti nel 2014. Questo vale 2 miliardi di risparmi per i cittadini e 2 miliardi però di costi che lo Stato così non incassa, e da qui alla fine del 2013 bisogna reperire questi 2 miliardi. Io oggi mi sono guardato in tasca, c'ho un paio d'euro li posso dare poi in ISBA, nel senso che se penso di mettere altre tasse non basta. E comunque, insomma, il ticket, uno stop da 2 miliardi, pagina 13 della Stampa. Il governo vuole fermare gli aumenti del 2014, i dettagli sono anche sul Sole 24 Ore con Marco Rogari, li trovate a pagina 5. Il governo punta a evitare il previsto aumento del ticket sanitario dal 2014, il valore di 2 miliardi conta di far leva solo su riduzioni della spesa. Abbiamo scampato le tasse, almeno così, a leggere il Sole 24 Ore di oggi, poi staremo a vedere. Giuro che non ho riso, quando ho letto sul Messaggero anche il seguente titolo nelle questioni delle riforme: taglio delle province, il governo ci riprova. Mi viene da ridere adesso in onda, ma giuro che prima non ho riso, forse non posso annato. Adesso a rileggerlo però, taglio delle province, il governo ci riprova. Beh sì, un pochino sorridere fa. Comunque domani alle Camere c'è il via al dibattito sulle riforme, tra cui anche la riforma per cercare di cancellare le province. Chiudiamo con questa notizia che trovate sul Sole 24 Ore in prima pagina. L'appeal della Svizzera. Poco fisco, tanti servizi, risultato: nonostante la proverbiale riservatezza della Svizzera, i dati non sono facili da reperire, ma Giuseppe Oddo ne ha recuperato qualcuno. In pochi anni si sono trasferite nel Canton Ticino, cioè il cantone che è al confine con la Lombardia, 113 aziende italiane. Non succede solo con la Svizzera, succede anche con la Carinzia, succede con altre regioni appena oltre confine. In pochi anni si sono trasferite nel Canton Ticino 113 aziende italiane utilizzando finanziamenti ad hoc e un fisco più agevole. Meditate, gente, meditate. Guardo Peter, no, c'è ancora un minuto in realtà. Sì, c'è ancora un minuto. Io guardo loro, ma loro non guardano me. C'è ancora un minuto? Sì, e allora? Grazie. Siamo di qua. E allora, quell'italiano ostaggio della volpe di Al-Qaeda è una storia che vi segnalo per concludere. Francesco Battistini racconta sul Corriere della Sera, pagina 21, la storia di un italiano che tutti colpevolmente hanno dimenticato, anche dei mezzi di informazione, Giovanni Loporto. Giovanni Loporto è stato rapito in Pakistan e è forse il meno rivendicato e meno ricordato degli ostaggi italiani nel mondo. Lavorava per un'organizzazione non governativa tedesca impegnata da mezzo secolo contro la fame nel mondo. È stato rapito il 19 gennaio del 2012. Pensate, da un anno e mezzo, e il Corriere va in Pakistan sulle tracce di Giovanni Loporto, cooperante rapito 16 mesi fa. Certo, c'è la strategia del silenzio, ma meritoria questa iniziativa del Corriere, almeno fare luce su un italiano, un connazionale di cui si sa veramente ormai pochissimo. Lo trovate sul Corriere della Sera.